sì, sì, e perciò o sole mai o sa snobusca alla detsco fa pleccia. Svesso tuyo tam da nocchi pagasho passa vejo chorna okuyo sieta hori raslažu. Plattel ne malea, ne targuisa, ne scopes. Atstavai kagome alea, bishak malatso sadis. Высокая тайну святу сахар.